Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salvadanaio. Da lunedì scorso i nostri conti correnti non hanno più segreti per il fisco, infatti partita ufficialmente la nuova anagrafe dei conti. Le banche e gli altri operatori finanziari potranno inviare all'amministrazione fiscale i dati e le movimentazioni bancarie di ciascun correntista, un quadro dettagliato di tutti i rapporti fra contribuente ed intermediari finanziari. Sapete bene, perché ce ne siamo occupati spesso, che questo grande fratello non gode di grande consenso fra i cittadini. Per la verità c'è chi non se ne preoccupa molto, c'è chi invece lamenta un'intrusione eccessiva alla propria privacy, perché l'iniziativa, come sapete, si intreccia anche all'avvio della nuova formula del redditometro, alle verifiche che sono consentite dallo spesometro, insomma tanti gli strumenti di accertamento fiscale, perché la guerra all'evasione fiscale non ha esclusione di colpi e non si ferma. Quello che vorremmo cercare di capire stamattina è che cosa cambia, perché per la verità l'anagrafe dei conti esisteva già, e quindi in cosa consiste questo potenziamento di questo strumento? Cosa cambia per il contribuente? Oggi torniamo sul tema per cercare di capire meglio anche le recenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito quale sarà l'utilizzo reale di queste informazioni. 800 24 00 24, come sempre il numero verde che vi consente di intervenire in diretta, di chiamarci per chiacchierare con noi dei temi che vi proponiamo e di farci delle domande eventualmente se non avete capito qualcosa di queste novità. Con noi stamattina Nicola Forte, consulente tributario, esperto per il Sole 24 Ore, che saluto. Forte, buongiorno e bentornato. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E un benvenuto invece a Luca Montessori, professionista dello studio Bernoni Grant Thornton di Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, oltre al numero verde, chiaramente le modalità di interazione con noi sono sempre le stesse. Ci potete scrivere degli sms al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo su Facebook al profilo salvadanaio-radio24 e su Twitter @salvadanaio24. Prima di tutto questo però un'occhiata all'andamento della giornata in borsa. Come dicevamo nel giornale radio, la giornata è positiva, è partita in maniera piuttosto moderata la seduta sui listini del vecchio continente, anche perché stamattina l'Asia è stata di nuovo contrastata. Tokyo ha chiuso male, l'Hanseng di Hong Kong ha chiuso invece con un rialzo di 2,5 punti, e quindi l'Europa oggi prende respiro, più 1,71% per Parigi, più 1,55% per Francoforte, Londra in rialzo dell'1,16%, sui 2 punti di rialzo Madrid e anche Milano in questo momento, che era partita un po' più in sordina. Ricordiamo che ieri è stata l'unica piazza negativa in Europa. C'era grande attesa per l'asta dei bot di questa mattina, titoli a 6 mesi, il Tesoro ha collocato senza problemi gli 8 miliardi previsti, ma come è successo per le aste degli ultimi giorni, anche in questo caso hanno preso il volo i rendimenti, che sono raddoppiati rispetto al mese scorso, e il titolo a 6 mesi ha chiesto stamattina, spuntato oltre l'1%, e c'è grande attesa per l'asta di domani invece per BTP a 5 e 10 anni. I migliori titoli sono tutti nel comparto bancario stamattina: la Popolare dell'Emilia Romagna guadagna il 4,18%, Monte dei Paschi più 3,84%, Popolare di Milano, autorizzata a rimborsare i monti bond dalla Banca d'Italia, guadagna il 3,64%, oltre 3 punti di rialzo ci sono anche per Telecom, per Enel Green Power, per Enel e per Mediobanca. In discesa invece anche oggi Saipem, che perdeva quasi 3 punti fino a poco fa, adesso il calo è stato ridotto allo 0,5%, Campari meno 0,5%. Euro su dollaro a 1,30,34. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi. Entra nel vivo la nuova anagrafe dei conti. È partito lunedì scorso quello che è stato definito Grande Fratello Bancario, l'anagrafe dei rapporti finanziari. Dal 24 giugno, infatti, banche, SGR, SIM, assicurazioni e fiduciarie possono trasmettere all'erario i dati relativi ai rapporti finanziari dei clienti. Lo strumento, che preoccupa molti contribuenti, ha l'obiettivo di effettuare una migliore selezione dei soggetti a rischio evasione e perseguirli in modo più efficace, come ha ripetuto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Finiranno sotto osservazione tutti i conti correnti, ma anche i depositi, titoli e obbligazioni, la gestione patrimoniale, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi, i contratti derivati, le carte di credito e debito, i prodotti assicurativi, l'acquisto e la vendita di oro e il numero degli accessi annui alle cassette di sicurezza. Il fisco potrà disporre delle operazioni di tutti i contribuenti italiani e potrà individuare i soggetti più sospetti e inserirli in apposite liste da tenere sotto controllo con particolare attenzione. Entro il 31 ottobre dovranno essere comunicate le informazioni relative alle diverse tipologie di rapporti attivi nel 2011. Per trasmettere quelle del 2012, gli intermediari avranno tempo fino al 31 marzo 2014. Una volta entrato a regime il sistema, le segnalazioni dovrebbero partire entro il 20 aprile di ogni anno. Sono in molti a temere che il fisco possa farsi delle idee sbagliate a partire da queste informazioni, fiutando un evasore anche dove non c'è. Per dormire sonni tranquilli, può essere utile conservare con cura tutta la propria documentazione bancaria e nel caso ci si trovi a ricevere prestiti o donazioni da parte di un parente o di un amico, sarà meglio che siano effettuati con sistemi tracciabili, così come il pagamento dell'affitto o l'accredito di stipendi e pagamenti. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande se volete intervenire in diretta. In alternativa potete scriverci al 349 238 6666. La prima domanda molto sintetica che è arrivata da parte di un ascoltatore è la seguente: è uno strumento retroattivo? Luca Montessori, io comincio subito con lei, perché già questa domanda lascia capire quanto equivoco ci sia intorno a questi strumenti di accertamento appunto fiscale, che già esistevano e banalmente, anche se non è in realtà un'operazione banale, negli ultimi anni sono stati potenziati e rafforzati, ma l'anagrafe dei conti esisteva già. Se il fisco voleva andare a controllare la nostra movimentazione bancaria, in realtà poteva già farlo. Assolutamente. Infatti penso che sia importante iniziare chiarendo che l'archivio dei rapporti finanziari esiste dal 2007 e include i rapporti esistenti già dal 2005. Quindi la comunicazione che è stata introdotta a partire da questo lunedì e potrà essere fatta entro la fine di ottobre è una comunicazione integrativa annuale, proprio perché va a integrare dei dati che sono già stati comunicati al fisco da parte degli intermediari finanziari. La differenza sta nel fatto che fino ad ora sono stati comunicati esclusivamente i dati identificativi del rapporto, quindi il tipo di rapporto e il codice fiscale del contribuente che ha instaurato il rapporto con l'intermediario finanziario. Adesso gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare i saldi, saldo iniziale, saldo finale e i movimenti dare avere durante l'anno. Un'altra domanda di un altro ascoltatore, stamattina le uso già da subito per animare la nostra trasmissione. Continuate a dire possono trasmettere gli intermediari questi dati all'amministrazione fiscale, ma possono o devono? Non è una osservazione di poco conto, Montessori. Certo, se vogliono possono non comunicarli, ma sono soggetti a sanzione amministrativa. Di conseguenza, considerando che l'intermediario finanziario, facciamo il caso della banca, che è il caso più eclatante, ma dobbiamo capire che la comunicazione deve essere fatta da tutti gli intermediari finanziari, compresa la holding di famiglia. Se comunque questo intermediario non effettuerà la comunicazione, verrà sanzionato per ciascuna comunicazione non effettuata. Considerando il numero di rapporti esistenti, non è il caso, appunto, no, di non ottemperare a queste indicazioni, a queste sollecitazioni, sì, dell'Agenzia delle Entrate. Nicola Forte, ancora buongiorno. Buongiorno. Come lei è già abituato a sentire, anche stamattina arrivano molte piccate considerazioni da parte dei nostri ascoltatori su questo strumento, anche se CINC invece non si preoccupa. Ci scrive Anna: violazione privacy, gli evasori come pensano che si faccia la lotta all'evasione fiscale? Per quanto mi concerne, si possono anche accomodare, intendendo appunto, immagino, l'Agenzia delle Entrate nell'effettuazione di questi controlli. Non sono per la verità dei controlli, i controlli scattano in un altro momento con modalità diverse e nel concreto, appunto, per spiegare ai nostri ascoltatori cosa succede, cosa è cominciato a succedere da lunedì scorso, che tipo di dati gli intermediari finanziari stanno trasferendo all'amministrazione fiscale e che cosa faranno appunto entro il 30 ottobre, perché poi nel giro di un paio d'anni tutto il contesto diventerà completamente operativo. Certo, allora innanzitutto, come è stato precisato, si tratta di dati aggregati, non delle singole operazioni: saldo iniziale, saldo finale, totale a debiti, totale a crediti. Poi un problema di privacy in realtà è ridotto ai minimi termini, nel senso che questi dati viaggiano su canali criptati senza che ci sia un intervento manuale dell'uomo, quindi nel senso che coloro che le trasmettono non conoscono i contenuti di questi dati. Questi dati arrivano nell'archivio centrale, dove vengono formate eventualmente sulla base di una serie di di indici di rischio che ancora noi non conosciamo, che verranno elaborati, delle liste selettive a livello centrale. Quindi non è il direttore di banca, per esempio il mio, che chiama il signor Befera e gli dice: guarda, ti sto trasmettendo i dati della dottoressa Rosciani perché mi risulta qualche anomalia. Non è così un flusso proprio di informazioni informatiche, adesso non so neanche se utilizzo il gergo corretto, appunto, che si trasferisce dall'amministrazione bancaria, passatemi il termine, a quella finanziaria, a quella fiscale. Assolutamente, e le liste selettive poi elaborate a livello centrale verranno, diciamo, materialmente consegnate agli uffici periferici, quindi sostanzialmente non c'è una conoscenza analitica immediata e diretta. Una volta formate queste liste selettive sono possibili una serie di sbocchi, nel senso di richieste di chiarimenti, invio di questionari. Non è detto che poi segua un'attività più analitica, e dobbiamo anche considerare che se il fisco vuole avere contezza, conoscenza dei dati analitici perché ritiene che quel soggetto effettivamente è un soggetto a rischio, che presenta un particolare profilo di rischiosità, per ottenere i dati analitici dovrà effettuare l'Agenzia delle Entrate una richiesta al direttore centrale dell'accertamento o al direttore della Direzione Regionale delle Entrate o al comandante regionale della Guardia di Finanza, motivando, e quindi devono esserci delle reali ragioni, la richiesta di ottenere quei dati analitici non riguardanti il saldo ma le singole operazioni. Quindi prima di arrivare a questo, certo, effettivamente ci sono tanti passaggi. Quindi, dottor Montessori, ci devono essere dei presupposti molto fondati prima che effettivamente parta un accertamento. L'anagrafe dei conti può supportare l'amministrazione fiscale nel fare appunto l'accertamento su un presunto evasore. Assolutamente, questo rappresenta un ulteriore canale di informazione a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, che, come abbiamo visto e come diceva anche la scheda introduttiva, ha già a disposizione tutta una serie di informazioni che derivano da altri adempimenti a carico dei contribuenti e che permettono appunto all'amministrazione di farsi un'idea di quello che può essere il rischio del contribuente ed eventualmente procedere con l'accertamento con la richiesta di ulteriori dati. E intanto stanno arrivando tanti messaggi. Funzionerà, non funzionerà tutto questo rafforzamento degli strumenti di accertamento? Non lo sappiamo. Roberto da Bergamo non ci crede perché dice: ma da quando? No, scusate, un altro ascoltatore, Roberto da Legnano, perché verrà? Ah no, sto facendo confusione perché ce n'era uno divertente su tanto contante che circola. Eccolo qua. Quanto siete lontani dalla realtà, ci scrive un ascoltatore da 30 anni grossista nel commercio, non ho mai visto girare tanto contante come ora. Quindi proprio pensate a quanto siano spaventati gli italiani da questi nuovi strumenti, da redditometro, anagrafe dei conti e dall'Agenzia delle Entrate. Poi leggerò anche gli altri due Roberti che ho citato. Sentirei subito qualche ascoltatore per capire quali sono i dubbi più diffusi su queste novità relative, peraltro cominciando appunto con Massimo da Potenza. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci dica. Allora, niente, il mio dubbio era soltanto questo. Io opero operazioni di borsa, quindi anche quotidianamente svolgo operazioni che spesso chiudo in giornata. Facciamo caso, io effettuo ogni giorno un'operazione di forex, quindi di sulle transazioni valute, sul mercato valutario, euro, che chiudo in giornata. Sì. Praticamente io mi ritroverò dopo un anno con aver fatto 270.000 euro di movimentazioni che in realtà hanno movimentato pochissimo il mio portafoglio, perché io vado ad impegnare 1.000 euro del mio saldo di conto. Vorrei capire, aver fatto 270.000 euro di movimentazioni mi espone comunque a un rischio di controllo? Massimo, la ringrazio perché il suo è un caso molto interessante, sono sicura che riguarda anche molti altri nostri ascoltatori che, per la verità, qualche volta qualcuno ci ha anche raccontato, in periodi di magra dal punto di vista del lavoro, per qualcuno in realtà ha movimentato molto il suo risparmio nel tentativo di crearsi anche un reddito aggiuntivo. Luca Montessori annuiva mentre sentiva la riflessione dell'ascoltatore, sono magari casi diffusi anche secondo quello che riguarda la vostra esperienza, però tanto mi viene da dire, la chiusura di operazioni finanziarie in giornata intanto vengono tassate alla fonte, a chiusura, per cui magari il fisco proprio sono le ultime operazioni sulle quali vorrebbe mettere gli occhi, è la prima riflessione che mi viene. Poi che cos'altro possiamo dire all'ascoltatore? No, possiamo dire che sicuramente queste operazioni risulteranno al fisco, risulteranno per l'importo dei ipotizzati 200.000 euro, perché come dicevamo le movimentazioni, ciò che viene inviato con questa comunicazione integrativa annuale sono proprio il totale delle movimentazioni distinte tra dare ed avere. A questo proposito però, come si diceva, sia per la motivazione della tassazione alla fonte, sia perché l'ascoltatore sarà sicuramente in grado di giustificare con la documentazione le transazioni fatte, non deve preoccuparsi, mm-hmm, perché è in grado di appunto poterle poi giustificare. Esattamente, infatti è tutto stratracciato, per cui direi che è già a posto. Ed ecco Daniele che invece ci scrive: io guadagno pochissimo, è tutto tracciatissimo, sono in regola, sono tranquillo. Negli ultimi anni però, proprio per questa condizione evidentemente di scarso guadagno, ho avuto il fondamentale aiuto economico una tantum da genitori e zii. Sta a vedere che adesso sono un soggetto sospetto per il fisco. Daniele, l'abbiamo spiegato centinaia di volte, però evidentemente non siamo stati efficaci. Nicola Forte, mi aiuti lei? Non sono questi No, i contribuenti che vengono ad essere controllati o che rischiano di essere controllati? No, i contribuenti che rischiano di essere controllati sono quei contribuenti che presentano... Sono i non contribuenti intanto, ecco. Sì, spesso inizialmente o completamente sconosciuti, oggi probabilmente forse verranno alla luce per effetto di questo nuovo strumento di controllo. Se gli scostamenti non sono di particolare entità e poi per le somme che eventualmente gli aiuti che il contribuente dovesse ricevere da parenti probabilmente affluiranno sul conto corrente o dovrebbero affluire attraverso un bonifico, attraverso un assegno. È chiaro che il consiglio pratico che possiamo dare è che quando si ricevono queste somme, assegni o altro, di conservare sempre la documentazione, ma per scrupolo. Ripeto, gli scostamenti di lieve entità infatti in qualche modo già dovrebbero... Quindi se il nostro ascoltatore guadagna poco e si fa aiutare, a meno che questo aiuto non consista in una Ferrari comprata così tanto per diletto, allora magari, e poi bisogna vedere anche come il fisco accerta l'esistenza di questa auto. Detto questo, quindi non temete, le situazioni problematiche sono altre, almeno speriamo. Poi il fisco ci ha insegnato anche negli ultimi anni che va a pescare sempre anche il pesce piccolo e quello che teoricamente non dovrebbe avere problemi. No, non sono la nuova conduttrice del Grande Fratello, state tranquilli, quello di cui parliamo questa mattina è un altro, almeno così è stato definito da tutti coloro che si preoccupano del funzionamento del nuovo redditometro o della nuova anagrafe dei conti correnti che è entrata a regime da lunedì scorso. Cosa cambia per i contribuenti? Che tipo di accertamenti sono quelli di cui parliamo e che utilizzo fa di queste informazioni l'Agenzia delle Entrate? 800 24 0024 è il numero verde per le vostre domande, ci state scrivendo e chiamando in tanti stamattina, e naturalmente i più preoccupati, lo stavamo dicendo adesso con Luca Montessori, i nostri ospiti di stamattina a microfoni spenti, sono proprio coloro che hanno un bilancio molto modesto, una dinamica del budget familiare molto molto tranquilla, e in realtà temono di essere i primi ad essere pizzicati appunto dall'amministrazione fiscale. Noi vogliamo cercare di rassicurare tutti stamattina e vogliamo farlo per esempio con Giulia che ci scrive: nei prossimi mesi aiuteremo nostro figlio insieme ai miei suoceri per circa 1.500 euro, saranno per qualche mese la sua unica entrata, per un po' ci saranno dei problemi. Nicola Forte, volevo sentire lei, perché domande e riflessioni di questo tipo, di questo tenore, sono davvero tante. No, direi assolutamente no, l'unico suggerimento che abbiamo più volte dato è di trasmettere la somma al figlio tramite bonifico, peraltro, o assegno. Questo dovrebbe essere già fatto, perché ricordiamo che c'è anche la normativa da rispettare antiriciclaggio, per cui non è possibile trasmettere, dare denaro contante per importi superiori ai 999,99 euro. Quindi nel momento in cui affluirà questo denaro sul conto corrente, pur non avendo un reddito, si riuscirà eventualmente, ove l'attenzione del fisco si dovesse concentrare, ma ritengo di no, su questo soggetto, dimostrare facilmente che il denaro avviene e proviene appunto da un aiuto dei propri genitori. Senta, però Forte, ammettendo che questo ragazzo adesso per un periodo non lavori e quindi non vuole sostenere la spesa di gestione di un conto corrente, e ammettiamo che questi due nuclei familiari che lo aiutano si spartiscono appunto questa cifra, 750 da una parte e dall'altra, prelevino questo denaro dal loro conto corrente e vogliano farlo gestire, e questo ragazzo voglia gestirlo in contanti. Questo è un problema? Allora, la cifra non mi sembra così irragionevole da non fargli fare anche questo percorso. Allora, la normativa antiriciclaggio sarebbe comunque rispettata, perché le somme di denaro arrivano da due soggetti, esatto, diversi, da due nuclei familiari diversi. Quindi, sotto il profilo del rispetto delle norme, siamo sicuramente a posto. Se però, ripeto, dovessi dare un suggerimento, perché prevenire è meglio, come si suol dire, che non curare, visto che prima o poi un conto corrente dovrà averlo, visto e considerato che ormai esistono delle offerte veramente vantaggiose, visto che, ripeto, è anche più semplice pagare e sostenere le spese, il suggerimento continua a essere quello precedente, anche se la legge però viene rispettata. I movimenti infrafamiliari adesso li commentiamo anche con Luca Montessori, e per farlo sentiamo la domanda di Giancarlo da Bergamo, che saluto, buongiorno. Buongiorno, ho bisogno di un'informazione. Io ho una zia ultra 85enne e siccome ha fatto la formichina per tutta la vita e ha messo da parte un po' di soldini per la sua vecchiaia, certo, è preoccupatissima di quel che potrà succedere. Come si deve comportare? Quanti milioni in dollari ha questa sua zia, Giancarlo? Ne ha parecchi, eh. Ah, beh, adesso a parte tutto, ma se li ha risparmiati, no, non li terrà sotto il materasso, immagino? No, ce li ha un po' sul conto, ecco, e un po' in obbligazioni. Benissimo, ha intenzione di fare delle operazioni strane con questo denaro, di trasferirli, di darli a qualcuno? L'unico suo problema è che tra qualche anno, quando avrà problemi di anzianità, dovrà ritirarsi in qualche casa di riposo, perché vive da sola. E quindi con questo denaro vuole gestire... Preoccupata che qualcuno, come dire, che debba rispondere di queste cose a qualcuno. Per quale motivo li ha messi da parte in 85 anni, poverina, ci mancherebbe altro. Però sono preoccupazioni legittime, Luca Montessori. Sono preoccupazioni legittime, ma come diceva prima il dottor Forte, nel momento in cui tutte le operazioni, sia di incasso, diciamo, che di pagamento, vengono effettuate tramite strumenti tracciabili, il contribuente non può preoccuparsi, perché è in grado di giustificare la provenienza del denaro senza alcun dubbio. Allora, mettiamola così, se questa vecchina si presentasse un giorno in banca con 2 milioni di euro e fosse sconosciuta a questa banca e magari, non so, questo denaro non potesse giustificare, magari lì potrebbe in qualche maniera, ma se è il frutto di una vita di risparmio, quindi è già da anni che questo denaro è tracciato sostanzialmente, dovrebbe essere tranquilla. Assolutamente, non ci sono problemi da quel punto di vista. Volevo approfittare invece per dare un ulteriore consiglio riguardo alle operazioni cosiddette extraconto, che sono quelle operazioni che l'Agenzia delle Entrate definisce effettuate per cassa o allo sportello. Quindi, per esempio, il deposito di contante, assegni, prestiti personali. Queste sono operazioni che, a misura del possibile, si dovrebbe limitare, perché sono delle operazioni che vanno al di fuori dei rapporti continuativi. Allora, intanto stavo riguardando un po' i messaggi degli ascoltatori che stanno arrivando. Lorella scrive: riviste e tabacchi non hanno scontrino, come documentare? Ma quante ne compra Lorella di riviste e tabacchi, al punto che si preoccupa di doversi giustificare col fisco di questi acquisti? Nicola Forte. No, direi che non ci sono problemi, voglio dire. E le spese minute, o meglio quelle spese che noi sosteniamo ordinariamente tutti i giorni e che non possono raggiungere importi così elevati, non devono assolutamente preoccupare gli ascoltatori. Peraltro non è il tema che trattiamo oggi, quello del redditometro, quello che dà tante preoccupazioni sulle medie Istat, no? Sì. A parte il fatto che dovremmo poi capire, già si anticipa che il fisco non darà così importanza a queste medie Istat, cioè il consumo medio per abbigliamento o altre spese, ma saranno tutto il più sufficienti delle giustificazioni verbali, quindi direi massima tranquillità. Allora, andiamo a Sandro da Bologna. Sandro, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Salve, io ho sposato una donna extracomunitaria. Siccome lei sia unica, come facciamo noi a ricevere i soldi dalla madre, che è l'unica familiare in vita. Cioè, praticamente la mamma dove vive, se le posso chiedere intanto? Moldavia. In Moldavia, quindi voi periodicamente ricevete dei trasferimenti di denaro da questa persona? No, lei, siccome non è tanto in salute, vorrebbe fare un unico trasferimento di denaro. Ma sua figlia verso sua madre o il contrario? Non ho capito. No, sua moglie verso sua madre? O... Mia suocera verso di noi. Sandro, se vuoi versare conti sul conto, questo dovrebbe teoricamente mettervi al riparo da qualsiasi preoccupazione, Montessori? Sì, anche perché le società che operano nel campo del money transfer sono anch'esse soggette a questi obblighi comunicativi, e pertanto il singolo trasferimento fatto ovviamente appunto attraverso una di queste società sarebbe tracciato e sarebbe perfettamente giustificabile in caso di ulteriori domande da parte dell'autorità. Benissimo. Allora, Gabriele da Torino invece ci solletica su un tema che forse potrebbe essere un po' più complicato. Gabriele, buongiorno, è quello dell'oro. Buona giornata. Sì, buongiorno. Sì. Allora, la mia domanda è questa. Siccome verranno segnalate anche le movimentazioni di oro, viene considerato solo l'oro da investimento o anche l'oro che io vado a vendere presso un compro oro? Allora, grazie Gabriele. Montessori stava guardando i suoi appunti, oppure sento Nicola forte, intanto lei del luccichio dell'oro, che ne pensa? Ma dunque, dalle indicazioni che mi risultano e dal decreto, c'è importo totale del valore degli acquisti effettuati nell'anno, senza alcuna distinzione. Adesso bisogna vedere se il provvedimento che dà indicazioni sulle modalità fornisca un'indicazione più puntuale. Allo stato attuale non mi risulta. Tra le altre cose dovrebbe essere anche indicato il numero delle operazioni effettuate. Quindi sotto questo profilo sembrerebbe tutto. Quindi acquisto dei lingotti, li metto in cassetta di sicurezza in banca, praticamente quello che viene tracciato è l'importo che ho sostenuto per comprare questi lingotti, e poi il contenuto della cassetta come viene... Il contenuto della cassetta no, semmai il numero delle volte, ma questo è un'altra informazione, il numero delle volte che accedo alla cassetta di sicurezza. Qui semmai le informazioni a seconda delle operazioni sono diverse, e se incrociate potrebbero dare in qualche modo un'indicazione di più al fisco. Sono soggetto a controlli, ci chiede un ragazzo che ci racconta di aver ricevuto dalla ditta di suo padre un versamento bancario di 185.000 euro per acquistare un'abitazione. Montessori. Allora, come dicevamo inizialmente, questo strumento, questa comunicazione integrativa annuale va a completare dei dati già in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Ma l'archivio dei rapporti finanziari è uno strumento che viene utilizzato insieme a tutti gli altri dati a disposizione dell'agenzia per valutare in futuro, per creare queste liste di soggetti possibili evasori ed eventualmente poi procedere con l'accertamento. Quindi non dobbiamo pensare che il singolo bonifico sia il campanello d'allarme che fa scattare l'accertamento immediato. Certo. Ci devono essere tutta una serie di elementi che l'agenzia deve valutare per poi procedere in questo senso. Per esempio, questo padre che anziché avere un'azienda fosse un nullatenente, miracolosamente partorisce questi 185.000 euro per un'abitazione che magari ne vale 20.000, ecco, tutto questo può essere un ambito che può essere oggetto a un controllo. Un'operazione tradizionale, mi sembra, come quella che ci racconta questo giovane, non dovrebbe. Ah, assolutamente. Nel migliore dei mondi possibili, Montessori, speriamo. Sì. Insomma, ma i vostri clienti, il vostro studio di commercialisti, appunto, si lamentano di tutte queste novità? Si lamentano, ma come si diceva, questi adempimenti sono in carico soprattutto agli operatori, agli intermediari finanziari già dal 2007. Infatti. Quindi diciamo che si sono abituati a tutta questa serie di adempimenti che sono stati in un certo senso buttati sulle spalle del contribuente da parte dell'agenzia stessa. Questo va ulteriormente ad aggravare una compliance che già veniva rispettata dagli intermediari, ma diciamo che l'abitudine, ci hanno fatto l'abitudine. Hanno fatto il callo. La nuova anagrafe dei conti correnti è partita lunedì scorso, e quindi sostanzialmente che cosa succede? Che da lunedì gli intermediari finanziari, banche, società di gestione del risparmio devono trasferire tutta una serie di dati relativi appunto ai propri clienti all'amministrazione fiscale, e entro il 31 ottobre di quest'anno si conclude questa prima fase di acquisizione dei dati dei contribuenti, e sono dati che si riferiscono all'anno 2011, dopodiché negli anni appunto successivi ci saranno trasferimenti di informazioni relative ad altri periodi. Noi ci soffermiamo a quello che sta succedendo appunto in queste prime battute. Tutte come dire, movimentazioni di informazioni che in realtà già esistevano. Adesso questo trasferimento di informazioni appunto viene un po' rafforzato, i contribuenti non dovrebbero preoccuparsi di niente, invece in realtà vedo che le preoccupazioni sono tante, sono anche un po' giustificate dal fatto che evidentemente nel nostro paese tutti questi strumenti a volte sembrano non funzionare, perché l'evasione è ancora altissima, e guardiamo che attorno a noi molto spesso ci sono comportamenti anche magari da parte di persone che conosciamo molto allegri, e noi ci sentiamo invece dei piccoli, come dire, cittadini onesti che non riescono appunto a proteggersi da tutto questo. Ma insomma, detto questo, noi oggi andiamo sul concreto, vediamo che cosa cambia, cosa succede, come dobbiamo anche magari modificare le nostre abitudini per non essere pescati dal fisco. Enzo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la condizione innanzitutto. Grazie. Volevo dire questo, il problema è molto piccolo in termini di cifra, ma siccome, come lei ha premesso, insomma, con l'Agenzia delle Entrate a volte le piccole cose creano delle rogne. Allora, mia figlia ha prenotato un viaggio per il suo ragazzo e due amici online, ha fatto tutta la transazione e ha pagato con la sua carta di credito. Ora, i suoi amici le hanno dato in contanti la loro quota di 700 euro per gli altri tre e lei li ha versati. Insomma, questa è una cosa che fanno tutti i ragazzi, sa quante volte l'ho fatto io con delle mie amiche? Infatti, io ho fatto un viaggio la settimana scorsa con una mia amica, abbiamo fatto tutte queste movimentazioni, perché infatti, è normale, una prenota l'albergo, l'altro l'hotel, l'altro il viaggio. Per loro è normale. No, siccome ho sentito parlare di tenersi la documentazione, ma in questo caso uno che documentazione tiene per dire guarda che 700 euro sono dei miei amici, ecco, questa era la domanda. Enzo, io ritengo che sua figlia possa stare assolutamente tranquilla, perché altrimenti già tutti temono che questi nuovi controlli appunto rendano più problematico l'ambito del consumo, perché la gente non farà più spese, non utilizzerà. Certo. Però Montessori, allora, adesso non andiamo oltre, insomma, il normale. Da spunto per ritornare sull'argomento delle operazioni extraconto, perché questa è una classica operazione extraconto, che però rappresenta un campanello d'allarme per l'agenzia nel momento in cui si parla di valori significativi e nel momento in cui il contribuente le svolge presso un operatore diverso rispetto al quale ha rapporti continuativi. €700 che vengono restituiti non rappresenta assolutamente un possibile campanello d'allarme. E poi, insomma, dovrebbe esserci un comportamento anomalo da molti punti di vista, di vista della figlia di questo nostro ascoltatore, affinché poi il fisco vada a chiedere giustificazioni anche di questi movimenti. Nicola Forte vuole aggiungere qualcos'altro? Sì, non solo l'importo, ma anche il fatto che vengono poste tante operazioni. Immaginiamo, ma non è questo il caso ovviamente dell'ascoltatore, che ci siano tanti versamenti in contanti, nel presupposto e ricordando anche che il fisco non è a conoscenza dei singoli versamenti, ma semplicemente che sul conto sono affluiti accrediti per un ammontare pari a eccetera eccetera. Quindi quello potrebbe essere uno dei tanti, ecco. Assolutamente, quindi direi, soprattutto con importi così esigui e soprattutto operazioni occasionali, non ci sono problemi. Vincenzo da Venezia, se perdo 5.000 euro alle slot, ci scrive, devo giustificare allo Stato il modo in cui, come dire, spendo i miei soldi? Ci mancherebbe pure. Anzi, diciamo che con questi 5.000 euro alle slot lo Stato è anche fin troppo contento, perché sono tutti i soldi che vanno a lui. Sentiamo Alberto dalla provincia di Parma. Buongiorno Alberto. Buongiorno, salve, ringrazio per avermi richiamato. Io ho un caso che è quello di essere stato un ex consulente che ha lavorato tanto negli anni scorsi, da formichina mi sono reso conto oggi come oggi di avere una grande liquidità su un conto di deposito, un dossier titoli importante e a tutt'oggi una dichiarazione dei redditi che non motiva in questi ultimi anni una situazione, diciamo, abbastanza importante. Io chiedevo, in tutta la trasmissione ho sentito a livello temporale di parlare del 2011, sì. Una fotografia esistente come la mia può dare origine a un controllo, e se ciò fino a che anno e con cosa potrebbe comportare? Alberto, la ringrazio. Allora sì, questa è una considerazione pertinente da parte dell'ascoltatore, perché lui dice comunque adesso magari mi sostengo con risparmio consistente, l'attività però negli anni è andata diminuendo, quindi questi guadagni alla luce di quello che faccio oggi potrebbero teoricamente non essere giustificati agli occhi del fisco. Montessori. Sì, purtroppo questo è un caso classico, esatto, che ci accade spesso nella pratica quotidiana, il dover giustificare, portare documentazione a supporto di di fatti, in questo caso si parla di delle entrate negli anni precedenti che poi portano il contribuente a poter beneficiare negli anni successivi. Innanzitutto, come si diceva, l'anagrafe dei rapporti finanziari è in essere dal 2007, ma i dati, almeno identificativi dei rapporti, esistono già dal 2005. E secondo, bisogna ricordare anche che le indagini finanziarie, anch'esse sono in essere già da diversi anni, e tramite queste l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno la possibilità di indagare specifiche situazioni tramite richieste ad hoc agli intermediari finanziari, se non accessi diretti. Mm-hmm. Quindi in questo caso, come ripetuto durante tutta la trasmissione, sicuramente questo potrebbe rappresentare, come detto prima, un campanello d'allarme, ma nel momento in cui si è in grado di giustificare gli introiti degli anni precedenti dall'attività di consulenza, non ci devono essere problemi per appunto poter... Tra l'altro, Nicola Forte, stiamo già chiudendo la nostra trasmissione, ci manca un minuto e mezzo, poi nel momento in cui deve giustificarsi questo ascoltatore all'Agenzia delle Entrate, la procedura appunto è particolarmente complicata, lo ricordiamo ancora una volta, l'abbiamo fatto anche con il redditometro, qual è il percorso che si deve fare? Perché non è che arriva un ispettore, busta alla porta e ti dice guarda, tu non risulti appropriato nella tua posizione e quindi mi devi dare dei soldi, cioè voglio dire la procedura è un po' più intanto certo, tranquilla, ecco. Dovrebbe ricevere una gentile comunicazione dove si sostanzialmente si evidenzia un'incoerenza tra il reddito dichiarato e le maggiori spese effettuate o anche l'accumulo, cioè la crescita del conto corrente, perché se un conto corrente mi passa da 100 a 1 milione e quindi ho accumulato, dovrei parallelamente aver guadagnato. Qua nel caso specifico non ho un balzo in avanti in un unico anno o una crescita da quel costante. Comprendo costante, e quindi io risponderò alla missiva del fisco, si tratta dei proventi accumulati negli ultimi 7-8 anni in quanto il conto corrente è costantemente cresciuto, e quindi con queste giustificazioni la partita con il fisco dovrebbe già chiudersi. Poi mi rendo conto che il doversi giustificare scoccia parecchio, perché è proprio il tema dell'onere dell'inversione della prova che è quella che indispettisce di più tutti, però questo è al momento e chissà che qualcosa non cambi prossimamente. Noi stiamo andando verso la conclusione, un'ultima raccomandazione ai nostri contribuenti intimoriti, Luca Montessori? Ma in realtà ripetere semplicemente quello che è stato detto, quindi cercare di utilizzare sempre gli strumenti tracciabili per gli incassi e per i pagamenti, avere a disposizione o essere in grado di recuperare il supporto documentale per le transazioni che potrebbero risultare inusuali agli occhi dell'amministrazione finanziaria, e limitare il più possibile le operazioni extra conto. Mm-hmm. Grazie a Luca Montessori, professionista dello studio Bernoni Grantorto, nel quale dal pomeriggio gireremo tutte le domande dei nostri ascoltatori, ci aiuteranno a rispondere quelli che non abbiamo accontentato, così come succederà la stessa cosa a Nicola Forte. Grazie, buona giornata. A presto, noi ci risentiamo domani. Buona giornata a tutti.